Va bene, è un piacere per me poter condividere con voi questo momento. Vi chiedo di avere un po' di attenzione su questo che vado a condividere. Non sarà un messaggio molto lungo, però è veramente una cosa che sento di condividere molto dal mio cuore, quindi solo un po' di pazienza e avremo modo anche di capire dove il Signore ci vuole portare oggi e che cosa ha da condividere con noi, perché con me l'ha fatto, è stato molto intenso, spero che possa essere lo stesso per voi. Inizio un po' con una storia. Qualche giorno fa, in realtà lo scorso weekend, mia moglie è partita per qualche giorno per alcuni impegni di lavoro. E quindi io sono rimasto a casa. A me piace cucinare, però non mi piace cucinare per me. Quindi in genere cerco qualcosa di già pronto per, insomma, da mettere in forno, comunque qualcosa da preparare velocemente. Ed è successo così, nel senso che c'era questa... Dovevo prepararmi la cena, quindi ho dovuto pensare di cucinare delle cosette veloci. E la prima cosa che mi è venuta in mente erano delle cose buonissime che a me piacciono, che sono quelle che noi chiamiamo bombette o involtini di carne, no? Questi di una nota macelleria di Modugno. E sono buonissime, sul serio. E quindi ho preparato questa cosa qui molto velocemente, quindi riscaldata in padella, ed erano straordinarie, quindi ho avuto una buonissima cena. Il giorno dopo, e ovviamente avevo lasciato la pentola nel lavello, quindi così, giusto tenerlo un po' a mollo, perché non c'avevo voglia di metterla nella lavastoviglie. Sai, quando sei solo hai questa pigrizia incredibile, non hai proprio voglia di fare molte cose in casa, pulizia, dice prima o poi tornerà mia moglie, quindi ci penserà lei. Però la pentola stava lì, era sporca, quindi la mattina l'ho ritrovata con uno strato solido di grasso. E lì non ho pensato questa roba scorre nelle mie vene, nel mio sangue, ho pensato erano buonissime le erano buonissime, quindi non ci ho pensato. Però la pentola andava ripulita, no? Quindi ho iniziato un po' a malauguratamente non l'ho messa nella lavastoviglie perché forse avrei evitato tanti problemi. E per farla breve, insomma, ho cercato di pulirla, ma da noi non arriva velocemente l'acqua calda, no? E quindi voi potete immaginare come si può pulire una pentola piena di grasso senza acqua calda e solamente con... Io ci mettevo tutto il detersivo, ma non veniva via. Sul serio, era... Più cercavo di pulirla, più si impiastricciava tutta e non faceva neanche schiuma il detersivo, era proprio piena di grasso ed era sporca. E mentre cercavo comunque di pulirla, cercavo anche dei rimedi, perché vabbè, adesso cerco di prendere il rotolo di carta assorbente e cerco di pulirla con quella. Mentre prendevo, le mie mani erano proprio sporche di grasso, quindi hanno sporcato la cucina, il rotolo di carta, era sporco, non sapevo più trovare una cosa pulita per pulire la pentola. E non vi nascondo che proprio anche i pensili erano sporchi, cercavo di prendere le maniglie, si sporcava tutto, cioè più andavo avanti, più le conseguenze di questo tentativo di pulizia andava a finire malissimo, proprio male. E insomma, per farla breve, la pentola, la padella è finita in lavastoviglie. Quindi ho dovuto alla fine rimediare con la cosa più ovvia che andava fatta. Questo per dire che, insomma, c'è sempre conseguenze sullo sporco. E voi avete già immaginato che sto parlando di quello che è il nostro rapporto riguardo anche al peccato. Il peccato riguarda tutti, però anche Gesù è per tutti. E questo è il tema di questo messaggio. Capite che quando abbiamo qualcosa di sporco è imbarazzante, veramente imbarazzante. Anche quando, non so, magari vestiamo qualcosa di chiaro e poi lo sporchiamo e noi ci teniamo ad essere con un vestito pulito e nell'occasione giusta, nel momento giusto. Quindi può capitare che una macchia di vino rosso finisca su un vestito giallo. Qualcuno ride perché sa di che cosa sto parlando. No, è Noemi, si è sporcata il vestito giallo con una macchia di vino rosso. Il peccato è imbarazzante. Il peccato riguarda tutti, ma in realtà, come dicevo prima, la cosa più bella che noi possiamo sapere al riguardo è che anche Gesù è il rimedio per questo, e che Gesù è per tutti. Abbiamo iniziato questo lavoro anche di serie di predicazioni che riguardano questo tema. Quando pensiamo che Gesù è per tutti, io ho dovuto riflettere molto, perché in parte il tentativo è quello di iniziare subito con l'idea, ok, l'obiettivo di questo è condividere Gesù con le persone che non lo conoscono. Però per me è molto importante cercare anche di capire, ok, che Gesù stiamo cercando di dare alle persone? Cioè, capiamoci, che cosa stiamo andando a dare alle persone? Quale Gesù stiamo predicando? E per me è stato un po' un riflettere anche su me stesso e capire, ma questo Gesù realmente chi è per me? Quanto lo conosciamo fino in fondo? O quanto presumiamo di sapere di Gesù? Penso che gran parte di noi abbiamo vissuto in una cultura cristiana, qualunque essa sia, e quando tu chiedi a qualcuno Gesù chi è o che cosa ha fatto, la prima cosa che ti risponde è chiaramente legata al fatto che Gesù è morto in croce, no? È morto per i nostri peccati. Questo lo sanno anche le pietre, in Italia soprattutto, tutti lo sanno. E questa è una grande verità, però è diventato ormai quasi un'icona, no? Il fatto di pensare a Gesù che è morto in croce. Infatti lo vediamo anche fisicamente nei locali pubblici, abbiamo questa croce con questo giovane magro crocifisso, no? Con i chiodi appeso a questa perfetta lineare figura geometrica della croce. In effetti è così. Pensate, no? Veramente c'è nella nostra cultura, anche dal punto di vista pop, c'è un'idea riguardo alla crocifissione. Tra l'altro viene proprio presentata anche nei concerti. Cioè, mi ricordo anni fa Madonna, la cantante, faceva questa crocifissione con gli Swarovski, diamanti. Cioè, veramente sembra quasi banalizzata questa cosa, quando in realtà è una verità molto profonda. Cioè, non è un logo, non è solo un'icona, è qualcosa di molto profondo che riguarda la vita di tutti quanti noi, nessuno escluso. E davvero penso al fatto che quando credo e penso a che cosa può aver significato per Gesù l'esperienza della croce, è per me un motivo di grande riflessione. E volevo portarvi con me in questo. E ho pensato che di fatto noi conosciamo molto bene questa storia, però forse molti dettagli ci saltano. E ho pensato, che cosa è significata questa croce per Gesù? Che esperienza è stata per lui? Innanzitutto sappiamo che questo sacrificio era per pagare il prezzo del peccato di tutti quanti noi. Questa è una verità sodata, la propiziazione, no? C'era un sacrificio da pagare per il peccato di tutti. In tutto il Vecchio Testamento si parla di questo sacrificio fatto nella figura, in metafora, con degli animali, il versamento del sangue. Però nessun sacrificio poteva pagare il prezzo dei peccati di tutta l'umanità. Perciò Dio ha rimediato a tutto questo con Gesù. Questo lo sappiamo, no? Lo conosciamo come una verità assodata, inconfutabile. Quello che intendo dire, mettiamoci un attimo nei panni di questa esperienza. Gesù ha passato una notte terribile, ha avuto un'ultima cena con i suoi amici, ha dovuto passare un'esperienza anche umana, brutta, dal punto di vista delle relazioni, con un tradimento. Uno dei suoi migliori amici, il suo entourage, no? Il suo gruppo più ristretto era fatto dai discepoli, 12 persone in tutto, e una lo tradisce, è Giuda, no? Potete pensare che questo, non so se voi avete avuto mai questa esperienza, però è una cosa molto brutta, profonda, e già questa è stata una cosa orribile da passare dal punto di vista relazionale. In più è successo che lui ha dovuto passare questa notte veramente insonne, senza chiudere occhio, perché da lì a poco l'avrebbero arrestato. È stata un'esperienza molto, molto profonda. Sapete, no? Conoscete la storia che era nel Getsemani, in questo giardino a pregare, e chiedeva anche ai suoi amici: pregate con me, questi dormivano pure. Cioè, non c'era neanche un supporto di persone vicino a lui. La questione è che poi viene arrestato. È un'esperienza che io mi auguro che nessuno di voi abbia mai avuto. Però ci sono persone che hanno vissuto questo proprio per l'Evangelo, che sono magari in questo momento anche imprigionate perché credono in Gesù in un paese straniero. E Gesù viene arrestato. E questo arresto veniva fatto 2000 anni fa, non c'era neanche la Carta dei diritti umani. E viene preso e umiliato nella maniera più terribile possibile. Se leggete un po' il racconto dei Vangeli, ma poi storicamente si può andare ad indagare sugli strumenti utilizzati per torturare Gesù, sono terribili, come una corona di spine. Una corona di spine. Non è un'icona, è una corona di spine. È fatta di spine tratte da alberi che facevano male, conficcati nella testa, cioè no, di spine dei rami, terribili. In più veniva utilizzata anche una frusta che viene chiamata gatto, che aveva 9 code questa frusta, e serviva proprio per intenerire la carne e poi strapparla. Non di meno, quella giornata diventa ancora più angosciante, perché la sua condanna riguarda una morte di croce. La morte di croce è una morte più umiliante e terribile che una persona possa subire. Anche i romani all'epoca, 2000 anni fa, nel momento in cui dovevano giustiziare qualcuno, per pietà, nell'idea della sofferenza di un'esecuzione di morte, veniva tagliata la testa. Perché comunque veniva praticamente portata alla morte la persona nella maniera più veloce possibile, anche se era una morte crudele. La morte di croce era quella più terribile al momento conosciuta in quel momento storico. Ed è stata inflitta a Gesù, su un processo che era stato pure truccato. Terribile. E il fatto di dover vivere quell'esperienza era portare un peso fisico di questa croce di legno che poteva pesare circa 50 kg. 50 kg. Non era neanche fatta al momento apposta per lui, era una croce riutilizzata più e più volte probabilmente, ed era sporca del sangue di malfattori. E lui l'ha portata per il tempo necessario per arrivare fino fuori alla città, ma non era un posto isolato, non era per forza nascosto, anzi era una collina dove tutti avrebbero visto il suo corpo nudo e posto su una croce, umiliato fino all'estremo. Questa croce aveva anche la necessità di ospitare la persona che doveva morire, appendendo questa persona a questo legno con dei chiodi. Non era legato con delle corde, era appeso alla croce con dei chiodi di circa 15 centimetri. E una volta che poi la croce veniva fissata in un buco perché potesse tenere il peso sia del legno che del corpo, veniva posta lì proprio come una manifestazione pubblica di un'esecuzione terribile riguardo a queste persone. In questo caso è Gesù. E Gesù sta soffrendo terribilmente, fisicamente, entrando anche in ambiti dal punto di vista fisico. La morte di croce non è solo un dissanguamento lento che passa su vari stati di agonia, stati di incoscienza, e arriva a spingere il corpo totalmente sulla pressione dei polmoni. Infatti la morte di Gesù avviene per asfissia. Lui non può più respirare e tira fuori l'ultimo grido, no? Dice: tutto è compiuto, tutto è compiuto. E in queste fasi di ore terribili, Gesù ha scelto coscientemente di fare tutto questo per te. Perché tu hai bisogno di Gesù, io ho bisogno di Gesù. Non c'era possibilità e altro rimedio. Se ci fosse stato, Dio l'avrebbe utilizzato. Non c'era nessun altro rimedio se non questo, esclusivamente questo. E la cosa più terribile non è solo tutto questo elenco di sofferenze fisiche, psicologiche, ma è la cosa più forte, che è l'incrocio della storia dell'intero universo, quando Gesù dice: Padre, perché mi hai abbandonato? In quel momento, tutto il peso dello sporco, del peccato, dell'intera umanità passata, presente e futura era su di lui. In quel momento, in quel preciso momento, Gesù era ladro, era pervertito, era omosessuale, era un adultero, era un bugiardo, tutto su di lui, tutto su di lui. Se questa verità è solamente l'elenco di una esecuzione crudele, in realtà questa morte, quel momento cruciale, è la liberazione per te. È un motivo di grande gioia per te, di grande pace per te, perché tu non potevi essere guardato per quello che sei, io non posso essere guardato per quello che sono, ancora oggi, perché non ho possibilità di pulirmi da solo. Non ho la possibilità di presentarmi davanti a Dio per quello che sono, perché è impossibile. Lo sporco crea conseguenze, più credi, cerchi di pulirlo, più si sporca il resto. Questa è spesso la condizione della nostra vita, e anche il modo in cui noi tentiamo e cerchiamo di aggiustare il tiro, perché siamo dei bravi credenti, e questo può diventare per noi una forma anche questa di terribile peccato. Adesso andiamo a vederla, ma quello che tengo a dire fortemente è che tu sia qui per la prima volta, o sei qui da anni e decine di anni e senti da tempo la tua relazione con Dio essere la stessa, questo sacrificio e questo momento storico della vita di Gesù è per te, ed è efficace oggi. Quello che era l'impossibilità di avere una relazione con il Padre, con Dio, Gesù l'ha fatto. In quel momento in cui lui ha preso tutto l'abbandono, tutta la tristezza, tutto il peccato, tutta la sporcizia su di lui, si è aperta una porta per te. Quella porta è per te. Puoi dire amen con me su questo? Facciamo un applauso veramente di gioia, considerando qual è la portata di questo evento per te, per me, ancora oggi. È per sempre. Non ci sarà più un altro sacrificio efficace come questo. E quando tu pensi che sei solo, ti capita di pensare che sei solo, o sei abbandonato, ti senti abbandonato, o la tua tristezza è così grande che nessuno ha il potere di cambiarla perché ti sta torturando, e tu pensi che davvero sei solo e abbandonato, è bugia, perché Gesù è stato solo, abbandonato, separato. Per te c'è solo grazia, per te c'è solo guarigione, per te c'è pace, per te c'è riconciliazione, per te c'è consolazione, e non te la meriti per niente, quanto non me la merito io. E quello è solo perché Gesù lo ha fatto, solo perché Gesù lo ha fatto. Quando presentiamo Gesù e vogliamo presentare Gesù, non stiamo presentando Gesù è morto per i tuoi peccati, noi stiamo presentando questo sacrificio. Non deve essere mai sottovalutato, deve rimanere impresso nell'idea che quella morte, quel peso è stato per te e per me. È davvero non pensarlo più, veramente sento questa parola molto forte, non pensarlo più, di credere che tu sei solo, sei abbandonato, sei messo da parte, non hai nessuno che ti cura, la tua malattia è troppo grande, perché Gesù è più grande di tutte queste cose. Sempre, sempre, sempre. E non, questa è una trappola importante su cui non possiamo più cadere, perché se non stai realizzando la pace sufficiente nella prova, nella difficoltà, nella condizione che tu sai che stai vivendo, allora stai praticamente facendo un'idea di essere cristiano, stai costruendo un'idea di essere cristiano e di essere un seguace di Gesù. Essere un credente significa confrontarsi con questo, avere la possibilità di capire che c'è il rimedio ed è per sempre. La tua unica idea è abbracciare sempre questa verità. Il tuo unico coraggio e passo che puoi fare a riguardo è abbracciare questa verità, perché lì hai il cambio della tua condizione, non c'è altro modo, non c'è altro modo. Quanti hanno sperimentato questo? Tanti, no? Gloria a Dio, questo è il frutto di quel tormento. C'è scritto in Isaia 53, conosciamo molto bene questo verso, lo leggiamo. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato letteralmente, a causa delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Il prodotto di quel sacrificio è pace, pace, collegato per sempre a Dio, per sempre. Tutti sanno questa verità. Quanto la facciamo nostra quotidianamente? Abbiamo bisogno di presentare un Gesù con piena sincerità e dire questo è Gesù, questo è quello che lui ha fatto per me. Non c'è un'altra cosa che poteva fare per me se non questa. Non c'è una garanzia di stare bene per sempre, di essere ricchi o di avere tutto quello che ti serve nella vita. La garanzia è la pace con Dio per sempre. E qui cadono le paure. Qui sale il coraggio, qui sale l'idea che posso affrontare qualunque circostanza, la peggiore che possa essere nella mia vita, rimanere nella sicurezza e in una consolazione che non è umana, veramente, non è possibile. E questo significa vivere ed essere credenti oggi, specialmente nella nostra società dove tutto ha una risposta, dove tutto è chiaro e tutti hanno l'idea di come deve funzionare il mondo. Non è così, non è così. Io credo che dovremmo avere un rapporto molto sincero riguardo al peccato. Questo abbiamo detto, non esclude nessuno, non esclude me e non esclude te, però Gesù è il rimedio, Gesù è per tutti. E ci sono modi in cui affrontiamo il peccato. Sicuramente quello che noi pensiamo, la prima cosa che ci viene in mente è ok, io non faccio quello che Dio, cioè disobbedisco a Dio. Ok, questo è proprio il peccato di commissione, cioè commetto deliberatamente una disobbedienza. Però è quello che più percepiamo. Però ci sono peccati anche diversi che sono quelli di omissione. E lì io ritengo che probabilmente abbiamo molto su cui lavorare, perché sto mancando di fare quello che Dio si aspetta che io faccia. E questo è grave, perché se io non voglio andare neanche lontano, ok, che poi iniziamo a parlare di problematiche sociali, accoglienza, già lì apriamo un mondo. Però rimaniamo qui. Veramente io chiedo perdono, perché tante volte mi sono reso conto che c'erano anche delle persone qui incrociandole e le ho viste in difficoltà e mi sono detto, io devo andare, Perché non lo farà qualcun altro? Lo farà il responsabile del gruppo in casa? Lo farà il pastore? Cioè il pastore parla con tutti, giustamente ha più copie di lui, cioè sono tanti, lo vedete dappertutto ultimamente. La verità è che quella responsabilità è tua, è mia. Se non la facciamo, manchiamo, stiamo peccando. Anche questo è un problema. E quanto io ci ho riflettuto un po' e ho pensato che c'è un elenco lunghissimo di cose che sto omettendo di fare. Perché io vivo nella mia bellissima chiesa, dove c'è un bellissimo servizio di lode, con dei canti fantastici e anche un bellissimo ambiente, dei banner, c'è anche il video, ci sono le sedie comode. Che bello, no? È bellissimo. È la cosa più bella che abbia mai sognato di avere nella mia vita come credente. Ma questa non è la mia chiamata e non è neanche la tua. La nostra chiamata, la nostra identità come credenti, come l'idea di vivere, portare Gesù, non è invitare delle persone qui in chiesa perché assistano a un bellissimo incontro, ma è quello di presentare questo sacrificio che è efficace per sempre. Questo è Gesù per tutti, ma inizia da me. Cioè Gesù deve essere prima di tutto per me. E se non lo realizzo pienamente ho difficoltà a darlo. Vorrei che riflettessimo un po' su questo, perché davvero credo che anche come credenti viviamo dei percorsi un po' strani, perché pensiamo che poi alla fine riusciamo a ripulirci un po' da soli, no? Io faccio delle cose buone, sono un bravo credente, non faccio male a nessuno. Già il fatto che dice non faccio qualcosa, stai peccando. Già che fai male, forse è buono. È scherzo, è un'esagerazione, però davvero io credo che non è possibile pensarti credente e vivere l'idea di passare il resto della tua vita così. È molto di più, è molto, molto di più. E ho scoperto un verso proprio su questa riflessione, ed è in Giacomo 3, capitolo 3, verso 13, quando noi diciamo... E io servo in chiesa. Quanti servono qui in chiesa più o meno per qualunque cosa, anche pulizia, eccetera? Quante persone servono qui in chiesa? Ok, la Bibbia dice questo, dice chi fra voi è saggio e intelligente mostri con buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Il fatto che tu servi in chiesa e fai delle cose buone, la Bibbia dice sei intelligente. È una buona notizia. Ok, sei intelligente, però questo non fa salire né di un gradino e né ti fa abbassare di un gradino il tuo livello di santità. È importante. Spesso pensiamo che questo che noi facciamo in qualche modo è buono. Io sono il figlio prediletto di Dio. No? Possiamo cadere in questo. Questo è orgoglio, no? È una forma di orgoglio molto, molto subdola, perché in qualche modo ti crea un'identità di un cristiano mostro, un po' strano, perché invece di considerare qual è la tua relazione con Dio, costruisci sul tuo essere bravo, no? Questo non è questo, perché se tu vuoi essere veramente santo con le tue forze, allora c'è uno standard, c'è una buona notizia, c'è un livello dove puoi arrivare e questo livello è lo standard di santità di Gesù. Se non sei come lui non vale. Ce la facciamo? No. Quindi è chiaro che non possiamo, sembra un titolo di un film, non possiamo salvarci da soli. Non esiste, non è proprio possibile e quindi davvero ti chiedo di considerare quanto io ho cercato di farlo per me stesso, davvero, con molta umiltà lo dico. È difficile percepirci veramente per quello che siamo e dobbiamo vivere in Cristo. Abbiamo bisogno di ridimensionare il nostro essere credenti ed avere l'umiltà ogni giorno di dire se sono quello che sono è grazie a te Gesù. Tu hai fatto questo nella mia vita. Io posso contare su di te anche per affrontare questa giornata orribile. Ci sono vari modi di dire orribile. Però veramente io credo che tu puoi vivere la tua vita diversa dagli altri e questo ti fa essere credente sul serio. Questo ti dà l'identità di e quella santità di Gesù che non ti puoi conquistare ma ti è donata. Perché tu ti puoi presentare davanti a Dio in ogni momento con vestiti puliti, e nessuno ti dirà, non puoi, non sei degno di metterli. È chiaro che non sono degno di metterli, non me lo potevo comprare, me l'hanno donato, me l'hanno regalato. E questa è la gioia più grande che tu puoi vivere, perché qualcuno ha sofferto veramente. Non voglio sottovalutare il tuo stato delle cose, la tua sofferenza, il tuo scoraggiamento. Io so che cosa stai passando, perché tutti lo passiamo. Quello che sto cercando di dirti è che puoi prendere pace con Dio oggi. Puoi vivere quella consolazione che Dio ti può dare. Puoi vivere pienamente l'idea che tu sei con Dio insieme e siamo una famiglia come credenti. Che siamo un supporto l'uno per l'altro e che quello che l'unica cosa che possiamo dare alle persone non è un bell'incontro qui in chiesa, ma possiamo dare un bell'incontro con Dio. Lui ha preso la nostra imperfezione per farla diventare perfezione. Ti fa strano dire sei perfetto? Sì, fa strano, però che bello, no? È fantastico perché Lui l'ha provveduto per noi. E chi ce lo toglie più? No? Gesù è vivo. Gesù è efficace. Gesù è in azione anche adesso. Il tuo cuore sta tremando a queste parole. Quanto trema il mio. Ho avuto un bellissimo incontro venerdì. Siamo stati a trovare un gruppo di giovani in una chiesa qui vicino a Trani, e in quell'occasione, prima dell'incontro, è entrato un ragazzo che non veniva da tanto tempo, anzi non viene proprio in chiesa, conosce un po' qualcosa perché ha frequentato per un tempo una chiesa, ma è arrivato lì disperato, letteralmente, con il cuore distrutto per una situazione molto grave riguardo a un problema di dipendenza. E sapete, davanti a queste cose tu non sai cosa dire, perché davvero trovi la disperazione di una persona che ha bisogno di aiuto e tu stai cercando di trovarlo nel modo più impensabile, no? Cercando di dire qualcosa di sensato, di dire qualcosa di intelligente che possa essere di aiuto. Il Signore sicuramente si usa di questo, però la verità è che io non avevo niente da dare a questa persona se non solo una cosa, Gesù. E davvero spesso sono limitato nell'idea anche mentale di dover dire qualcosa di buono a qualcuno. E quando lui è rimasto poi durante tutto l'incontro e alla fine ho sentito di avvicinarmi e di pregare con lui, l'unica cosa che sono riuscita a dirgli è che veramente c'è qualcosa di più grande del tuo problema, quel qualcosa di più grande è Gesù. Non sapevo che altro dirgli. La cosa più banale del mondo, vero? E quello ha rotto il suo cuore, ha iniziato a piangere, a dirotto. Cioè, c'era lì Gesù in azione. Io non ho fatto niente, ma Gesù è entrato in quella vita, quella sera. Ma sul serio, per me è sempre straordinario vedere quanto Gesù è efficace ed è vivo nella vita delle persone e quanto è concretamente potente. Perché quel sacrificio gli ha dato tutta l'autorità e la potenza di cambiare la vita delle persone. Che cosa possiamo dare di buono noi? Che siamo pure noi, dobbiamo... possiamo dare solo Gesù. Perché Gesù è per tutti. È per me, quanto lo è per te stamattina, ed è efficace ora. E sta parlando al tuo cuore quanto lo sta facendo a me. Ci alziamo in piedi, voglio pregare insieme a voi. Possiamo chiudere un attimo i nostri occhi e considerare anche quello che abbiamo appena ascoltato. Rivediamo quel quadro terribile di questa morte, di quel sacrificio, ma vediamo anche il momento in cui si sono aperte le porte per noi, quanto si è aperta la porta per la nostra salvezza, quanto in questo momento possiamo dire grazie Gesù perché sei nella mia vita, grazie perché io ho pensato di essere solo ma invece sono con te. Ho pensato di essere stato abbandonato, ma invece tu sei con me. Ho pensato di non meritare l'amore di nessuno, invece tu mi ami. E tutto quello che è stato distrutto e ferito nel passato non ha più importanza, perché adesso tu sei la cosa più grande per me. Se questa è anche la tua confessione e senti questo nel tuo cuore e vuoi riprendere con sincerità un cammino aperto oltre le tue convinzioni, anche quello che tu hai pensato fino ad adesso di Gesù, e vuoi dire io voglio conoscerti di più, voglio entrare in profondità con te, voglio che quel sacrificio diventi efficace oggi nella mia vita perché ho questo problema e perché io sto vivendo questo e perché nessuno lo sa e nessuno lo comprende quando lo puoi vedere tu. Se questo è la tua condizione, è il tuo cuore, puoi alzare adesso la tua mano con sincerità, non perché serve che tu lo faccia davanti a me, ma perché dimostri a Dio che tu hai il tuo cuore arreso in questo momento e che hai bisogno di Lui. Grazie perché, per la tua sincerità, grazie perché il tuo cuore è arreso in questo momento, grazie perché tu stai dicendo io ho bisogno di te. Signore, io ti prego per tutte queste mani alzate, compresa la mia, perché abbiamo bisogno oggi che quel sacrificio oggi diventi di nuovo concreto e vero per la mia vita e per la nostra vita. Signore, che nessuno più possa rubarci quello che tu ci hai donato o possa allontanarci da te, perché la tua vita, la nostra vita è nascosta nella tua. La tua vita ha cambiato la nostra, la tua vita ha dato vittoria alla nostra, la tua vittoria è la mia vittoria. Quello che io non avrei mai sperato di avere, io lo ho e ce l'ho in te, perché tu sei la speranza per la mia vita, per la nostra vita, per sempre, per sempre, per sempre, in Cristo Gesù. Amen.